Cosa senti quando te ne vai? Proprio al di là dei sogni tuoi. Il cielo si fa un po' più blu, la pioggia non ti bagna più, ma tanto tu lo sai che c'è, che se guardi un po' più in là vedrai che chi sta come te non è più un uomo a metà. Dimmi tutto ciò che hai fatto già, quello che hai da fare si vedrà. Il vento che soffia di là, se sei solo e non ti va di pensare a ciò che accadrà domani, perché ora tu non vuoi venire incontro alla realtà, ma andrà come andrà. Quanta gente dimenticherò, quante volte non mi volterò a cercare ciò che è perso lì, dimenticato in fondo al mare, mentre tu sei ancora lì e aspetti quello che accadrà, andrà come andrà. Perché il mondo va così finché siamo qui. Perché oggi siamo così. Perché il mondo va così finché siamo qui.